Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con l'attrice Gioia D'Angelo per parlare dello spettacolo Aspide, Gomorra in Veneto. A Roma, Teatro Porta Portese, 24 e 25 febbraio 2020. Gioia, ben trovata. Ciao, ciao a tutti voi in studio e agli ascoltatori. Ci racconti di questo lavoro? Ma certo che sì, con orgoglio siamo felici di portarlo in giro, specie di venire a Roma per la prima volta. Aspide Gomorra in Veneto è nato da una collaborazione con Libera contro le mafie. È stato proprio Marco Lombardo, referente provinciale di Libera, a darci gli atti del processo. Mi ha raccontato di questo caso di casalesi insinuatisi in territorio veneto, che avevano minacciato oltre 130 imprenditori, soprattutto a Padova. Io sono nata e cresciuta a Padova, e mi ha raccontato di questo caso, tra l'altro con l'urgenza che questa storia venisse raccontata. Io stessa, che abito a Padova quando non sono in viaggio, diciamo, non avevo mai sentito parlare di questo caso, ed è avvenuto 9 anni fa, nel 2011, quindi insomma è recentissimo. Da qui l'idea di parlarne. Lui mi ha affidato gli atti del processo. Io a mia volta li ho condivisi con Tommaso Fermariello, il drammaturgo di questo lavoro. Con Tommaso ci siamo conosciuti all'Accademia Teatrale Veneta a Venezia, dove abbiamo studiato entrambi, anche se in anni diversi. Anche l'altra attrice, Martina Testa, ha frequentato la nostra Accademia, e quindi da qui è nato questo progetto. Come l'avete strutturato? Abbiamo pensato che la donna spesso ha il compito, o la forza, di portare avanti, di raccontare storie, di portare avanti le tradizioni, di tenere vivo il ricordo a partire dalle storie private, familiari, ma anche no. E quindi abbiamo pensato a due donne che potessero in qualche modo portare avanti due visioni diverse sull'aspetto. Io ad esempio sono la giornalista e racconto i fatti. Questa storia non è per nulla conosciuta, dunque c'era bisogno di qualcuno che dicesse numeri, date, che raccontasse l'evolversi delle vicende, dei fatti. E quindi questo tocca alla giornalista, che all'inizio si approccia a questo caso per un lavoro che le viene assegnato. Dall'altra parte c'è Martina, che interpreta Rosalina, la moglie del testimone di giustizia Rocco Ruotolo, e in qualche modo porta avanti la sfera emotiva di una donna che resta accanto al suo marito e alla sua famiglia, e a tutto un mondo che ti si sgretola davanti, perché poi alla fine fai i conti con la paura, con quello che potresti perdere. E quindi partiamo da due punti di vista diversi, anche se poi in realtà entrambe si troveranno a fare i conti con quello che potrebbero perdere, no? Con quello che c'è in gioco, che è qualcosa di più grande di loro, in un certo senso. Ecco, a questo proposito, venire a sapere di questa realtà, che situazione ti ha posto davanti che non conoscevi? Qual è la realtà oggi rispetto a questa presenza della mafia al nord? Appena mi hanno raccontato di questa storia e ho letto gli atti del processo, mi è sembrato di trovarmi in un film, sai, come spesso accade quando senti il nome mafia, ma è qualcosa che è lontana, è circoscritta, dunque non ti può ledere, non può in qualche modo avere a che fare, no, con te, ed è egoismo, ed è qualcosa che tieni lontano. Poi in realtà scoprire che nella mia città, tra l'altro in zona industriale, questi casalesi insomma si appoggiavano a un ufficio in via Lisbona qui a Padova, dunque una via di passaggio, ecco. Quindi insomma questa cosa mi ha all'inizio spaventato, ma ero tra l'incredula e il preoccupata, no? Poi da quando abbiamo iniziato a portare in giro questo lavoro, sarà che ci ho prestato più attenzione anch'io, ma poi in realtà sono capitati casi uno dopo l'altro dal sindaco di Eraclea. La corruzione è diventata una rete che all'inizio era sottile, invisibile, ma adesso sta emergendo e c'è una forte sensibilità anche della Regione Veneto, del Comune. Vediamo che ci stanno sostenendo molto nel raccontare questa storia. L'abbiamo raccontata anche ad alcuni studenti dei vari licei, insomma, qui c'è una forte attenzione a questo caso che sicuramente va raccontato, perché il nostro compito è raccontare storie e bisogna sapere, è troppo comodo specie in questo periodo, circoscrivere un problema, no? In una data regione, un determinato luogo. In realtà ci appartiene, è qualcosa che è tra di noi e dunque è bene saperlo. Dopo Roma proseguirà il suo percorso? Sì, non abbiamo ancora delle conferme, quindi non abbiamo ancora delle date ufficiali. Certamente saremo ad aprile, il 20 aprile, se non erro, al Teatro Filarmonico a Piave di Sacco e poi in alcune scuole di Padova, ma del Veneto soprattutto, Padova e provincia. Siamo stati pochi giorni fa a Venezia, a Capo Oscari. Eravamo in stagione lì e siamo stati a Genova alla rassegna In Transito. In chiusura ci lasci tutti i riferimenti web per saperne di più? Certo che sì. Allora, la compagnia che produce questo spettacolo si chiama Archipelagos Teatro. Trovate tutte le informazioni sulla nostra pagina Facebook, trovate anche il link per prenotare i biglietti e trovate tutte le informazioni, quindi orario, vi aspettiamo. Aspide, Giomorra in Veneto, a Roma, Teatro Porta Portese, 24 e 25 febbraio 2020, un saluto e un ringraziamento all'attrice Gioia D'Angelo. Un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie il lupo e grazie di aver condiviso il nostro lavoro con tutti i vostri ascoltatori. Grazie, grazie a tutti. Con Rosario Mastrota, regista dello spettacolo The Speaking Machine di Victoria Thunberg a Roma, all'Appi Teatro, 27 febbraio 2020. Rosario, ben trovato. Ciao Federico, ben trovato. Ben trovati a tutti. Ci racconti? Sì, vi racconto con molto piacere questo progetto interessantissimo che ci è stato proposto l'estate scorsa da Primavera dei Teatri in collaborazione con PAV, la messa in scena di un testo di un'autrice catalana, nel nostro caso, Victoria Thunberg, all'interno di un progetto che si chiama Europe Connection, un progetto che vuole mettere in relazione degli autori di paesi europei con delle compagnie, degli artisti, dei drammaturghi italiani. Il progetto che abbiamo selezionato tra tutti i progetti che ci sono stati sottoposti è appunto The Speaking Machine, uno spettacolo che racconta un contemporaneo traslato in un futuro immaginato dall'autrice, appunto, un futuro che in realtà è un'ambientazione kafkiana, quindi c'è una visione del futuro con uno sguardo invece alle scritture di Kafka. Ci sono dei personaggi che raccontano, provano a raccontare la propria personale solitudine all'interno dello sviluppo di una storia che intreccia tre vite. Intreccia la vita del protagonista, che è un uomo che lavora per una azienda X in un paese X del mondo, che appunto per vincere la propria solitudine decide di acquistare una macchina da parlare, come diciamo, se possiamo avere un riferimento oggi, diciamo una sorta di Alexa. In realtà però questa non è una macchina tecnologica, ma è una macchina in carne ed ossa, in realtà è una persona. E quindi la forza di questo testo punta appunto su questo, sul fatto che nel futuro che ha immaginato Victoria, gli esseri umani si prestano a fare le macchine per altri esseri umani. Mm-hmm. E quindi dalla dinamica che si innesca nello sviluppo e nel racconto delle solitudini di Bruno e della macchina da parlare, arriva all'interno dello spettacolo un terzo personaggio che è sempre un essere umano, ma è anche lui una macchina, che creerà una sorta di disequilibrio tra i due e farà virare lo spettacolo sulle relazioni umane, quindi davvero su quello che è la forza delle relazioni umane, tutte umane, quindi con il sangue, con le carni, con la carne e con le ossa. E in scena ci saranno Maurizio Aloisio Rippa, Dalila Cozzolino e Antonio Monsellato. La regia è mia. Due curiosità, chiaramente mi sembrano relazioni basate su dinamiche di potere, e l'altra curiosità è relativa alla variabile sentimenti. Sì, esatto, esattamente quello. C'è un potere che prova a mettere in ginocchio lo stato umano, ma è un potere che sta lì in maniera passiva e che vincola l'essere umano a piegarsi alla routine, quindi a dover affrontare la vita in una maniera ciclica, no? quindi facendolo arrivare quasi ad una sorta di noia, ecco, della vita. Accade però che questo meccanismo così meccanico, appunto, così strutturato, così definito, viene messo in allarme proprio da quello che è il sentimento umano, perché questa donna che decide di fare la macchina per un altro uomo, decide di fare la macchina da parlare, quindi è una macchina che deve intrattenere la persona che l'ha acquistata, comincia a provare dei sentimenti, e per il proprio passato e per la relazione che si innesca con il suo proprietario, ma soprattutto con una relazione nuova che comincia a percepire, a provare quando arriva il terzo personaggio. Proprio da testo, il personaggio si chiama Cane da Piacere. Cosa ti ha convinto maggiormente del testo originale? La vicinanza con i temi che affrontiamo noi di Compagnia Ragli. Quindi da anni noi raccontiamo le storie di persone sole, di persone isolate, di invisibili, di persone ai margini della società, temi anche che toccano i macro temi quali appunto l'andrangheta o la follia, eccetera, eccetera. Quindi la vicinanza con questo nostro modo di concepire la vita degli altri e di mettere in risalto delle piccole vite per farle diventare delle vite da raccontare. Quindi questo è quello che ci ha convinto maggiormente. Poi la scrittura di Vittoria, perché è una scrittura fresca, una scrittura divertente, nel testo ci sono dei momenti davvero molto esilaranti, molto divertenti e anche molto profondi. Quindi assolutamente ci ha convinto la vicinanza con la nostra poetica. Spendiamo anche qualche parola sulla Compagnia Ragli e su AP Teatro? Certo, Compagnia Ragli è una compagnia che resiste nel marasma di quello che è oggi il nostro teatro italiano. Abbiamo debuttato recentemente con un altro lavoro appunto che tocca questi temi. Abbiamo debuttato il mese scorso con Chi niente fu, che è un testo di un giovanissimo drammaturgo italiano, si chiama Giuseppe Pipino, giovanissimo perché davvero ha 23 anni, ma è davvero promettente, che ci ha proposto questo testo che raccontava la storia di tre personaggi, tre vite all'interno di un palazzo abbandonato, un non luogo, che non hanno nessun tipo di relazione tra loro e raccontano appunto la difficoltà a essere nel mondo, no? È uno spettacolo che ci ha visto uscire dopo le scritture nostre, diciamo le scritture drammaturgiche fatte a quattro mani con Dalila o scritte direttamente da me, ci ha visto di nuovo mettere in scena il testo di qualcun altro, e questa cosa devo dire ci sta cominciando a piacere. Up è la scommessa. Up è uno spazio sociale all'interno della città di Roma, nella periferia di Roma, nel quartiere Cinecittà, uno spazio nato all'interno di una scuola, l'Istituto Enzo Ferrari, dove assieme a Associazione da Sud, che è capofila del progetto, Via Libera, Associazione Magbi, l'Associazione Diversamente, quindi un insieme di associazioni, abbiamo messo su uno spazio che vuole essere un contenitore, appunto come un'app, per dirla in maniera tecnologica, un contenitore di tutta una serie di attività culturali, quindi dal teatro al cinema, alla radio, e questo tema ti tocca probabilmente particolarmente, il mondo dei fumetti, il laboratorio con i ragazzi, il laboratorio con gli infanti, con i ragazzi più piccoli, il teatro ragazzi, insomma una serie di attività che vanno a convogliare all'interno della struttura. Siamo al nostro terzo anno di attività, il terzo anno della stagione teatrale che ha preso il via il 27 di gennaio, e poi tutta un'altra serie di cose che se dovessi elencare davvero non avrei il tempo di farlo. Ci sarà poi a chiudere, diciamo, il percorso della stagione teatrale, che trovate naturalmente sul sito dell'Accademia, che è www.appaccademia.it. Chiuderemo questo percorso quest'anno ad aprile con la seconda edizione del premio Mauro Rostagno, un premio dedicato alla figura di questo intellettuale scomodo e assolutamente di grande forza, di grande resistenza, che è appunto Mauro Rostagno, che faremo il 16, il 17 e il 18 di aprile nel nostro spazio. Avremo una giuria tecnica che valuterà i lavori che vanno in scena, una giuria popolare guidata dalla Casa dello Spettatore e un ospite speciale che è Ascanio Celestini, che verrà a regalarci un momento della sua poetica. The Speaking Machine di Victoria Spumberg a Roma, all'Appi Teatro, giovedì 27 febbraio 2020. Un saluto e un ringraziamento al regista Rosario Mastrota della compagnia Ragli, che ce ne ha parlato. Rosario, un abbraccio, un in bocca al lupo, ci vediamo lì. Grazie Federico, un abbraccio, è sempre un piacere, lo sai. Con Lea Barletti per presentare lo spettacolo Monologo della Buona Madre a Roma, Teatro Torlonia, dal 28 febbraio al 1 marzo 2020. Lea, ben trovata. Ciao Federico, buongiorno. Ci presenti questo lavoro? Eh sì, certo, è una doppia serata. C'è anche un altro spettacolo, quindi oltre al Monologo della Buona Madre che presento io, lo spettacolo anche di una amica e collega, Luisa Merloni. Lo spettacolo si chiama Farsi Fuori. Sono entrambi due spettacoli sul tema, diciamo, della maternità o non maternità, quindi della scelta o non scelta di questo ruolo, se sia possibile o meno farla, di quanto questo sia un ruolo in qualche modo imposto socialmente, in qualche modo richiesto alle donne e le conseguenze di tutto ciò. Comunque, ecco, il mio testo, Monologo della Buona Madre, nasce proprio da una riflessione generale, a partire ovviamente dalla mia vita di madre e di artista, perché in realtà poi parlare del ruolo, no, non a caso la parola ruolo, comunque, di madre è anche una scusa per parlare di vocazione, insomma, e quindi del saper riuscire a trovare il proprio posto nel mondo, in saper riconoscere la propria vocazione, saperla difendere e saper, diciamo, difendere i propri desideri e non lasciarsi comunque costruire il ruolo a seconda di quello che la società, uno si aspetta da te. Ecco, la domanda fondamentale è: si può uscire da un modo che è quello ritenuto, diciamo, collettivamente il modo di essere buone madri, oppure è talmente tanta la pressione imposta che alla fine uno pensa di fare delle scelte, ma in realtà non le fa. Qualcuno ha già scelto appunto, insomma, per noi. Ecco, questo è un po' tutto, nasce da questa riflessione. C'è una frase dal secondo sesto di Simone de Beauvoir, dice: c'è una strana malafede nel conciliare il disprezzo per le donne con il rispetto di cui si circondano le madri, e anche questo è tutto parte spesso. Insomma, c'è questa donna che si interroga in questo monologo su cosa significa essere una buona madre e a costo di cosa si interpreta al meglio questo ruolo, a costo di cosa le donne cercano di interpretare al proprio meglio questo ruolo. Come hai pensato la messa in scena? Siccome stesso è un monologo, e l'ho scritto io, l'ho interpretato io, il rischio è che possa risultare troppo personale, anche se portando in scena molta gente, anche persone appunto non madri, non genitori, perché comunque poi si parla di genitorialità in genere, mi hanno detto che comunque appunto, perché lo spettacolo parla di questo argomento, ma come scusa per parlare di altro, mi hanno detto che sono rimasti molto toccati, anche se non genitori. Però insomma, per allontanare questo rischio, io ero molto affascinata dalla possibilità di assumere quasi la personalità di un androide, cioè un essere che veramente si interroga su ciò che è, tra virgolette, giusto e ciò che è sbagliato, su cosa vuol dire veramente essere umano, cioè che cos'è essere umani, insomma, che dove sta l'umano. E quindi c'è questa donna in scena, che sono io, su un piedistallo molto alto, quindi appunto a rappresentare questo monumento alla madre, alla buona madre, un trespolo insomma alto 1,5 metri da qui effettivamente è difficile anche scendere, se non è impossibile, perché appunto è un ruolo da cui, un ruolo in qualche modo da cui è difficile uscire una volta che lo si è scelto. E c'è molta reticenza, è un tabù, insomma, tutti come donna ti viene detto da, in continuazione, no? Ah, come? Briga per fare i figli, poi te ne pentirai, se no? Nessuno ti dice, guarda, potresti anche pentirti di averli fatti. Perché? Perché è una cosa che ovviamente fa paura e scardina totalmente questo mito molto italiano, tra parentesi, della maternità. Cioè che essere madri sia necessariamente una cosa meravigliosa. Ecco, anche di chi questo si interroga lo spettacolo. Cioè io credo che di essere madri ci si possa sentire altrettanto quanto di non esserlo, insomma, il rischio c'è in un senso o nell'altro. Questa cosa andrebbe detta. E poi non significa, se uno si pente di essere diventata madre, che uno non ami i propri figli, questa è tutta un'altra questione, ovviamente. Ma significa guardare in faccia le cose come sono. Ci lasci tutti i riferimenti web per saperne di più? Innanzitutto c'è la nostra della compagnia, perché io ho una compagnia, la compagnia che porta in scena questo spettacolo si chiama Parletti Vas, siamo io e il mio compagno Werner Vas, e abbiamo curato la regia insieme, quindi c'è www.parlettivas, tutto unito, Vas con W e 2A, .eu, e poi il sito del Teatro di Roma, in particolare il Teatro Torlonia, e la mia pagina Facebook, Lea Parletti. Monologo della Buona Madre a Roma, al Teatro Torlonia, dal 28 febbraio al 1 marzo 2020. Un saluto e un ringraziamento all'autrice, attrice Lea Parletti. Un abbraccio e in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie, viva il lupo, ciao. Con Giuliano Bugani, autore e interprete dello spettacolo Il Sistema Binario, a Pistoia, la sala della sezione Soci Coop, venerdì 28 febbraio 2020, in prima nazionale. Giuliano, ben trovato. Ciao a tutti, ciao Federico. Se non sbaglio, si tratta di due argomenti in un unico testo, vero? Esattamente. Ci racconti? Sì, il Sistema Binario nasce come teatro d'inchiesta che ho la presunzione di aver inventato dopo il teatro civile di Paolini, Bagliani, Celestini e altri. Io credo di aver inventato il teatro d'inchiesta nel quale teatralizzo eventi drammatici della vita delle persone. Il Sistema Binario parla dei lavoratori dell'OGR di Bologna, che questo acronimo vuol dire Officine Grandi Riparazioni, cioè questa grande fabbrica dello Stato, delle ferrovie, dove entravano i treni e venivano scoibentati dall'amianto e rimessi in rotaia anche dopo una revisione del sistema rotante. Poi ovviamente il monologo arriva fino, come ho scritto nel comunicato, alla strada di Viareggio, che poi magari posso spiegare perché. Il Sistema Binario parla dell'OGR, quando il segretario della FILD CGL, cioè il sindacalista nazionale che difendeva i lavoratori dei trasporti, Mauro Moretti, che era il segretario dei trasporti del settore CGL, difendeva i lavoratori, e poi la storia continua quando le FS affidano a Moretti la dirigenza delle ferrovie, e Moretti, da segretario nazionale della FILCGL, diventa amministratore delegato dell'FS, che vengono nel frattempo trasformati in SPA, e da sindacalista che difendeva i lavoratori diventa amministratore delegato e licenzia i lavoratori che prima difendeva. Ma non solo, questa infamia ovviamente è tenuta nascosta della CGL, che invece io riporto molto chiaramente e dettagliatamente nel monologo. Ma non solo, oltre ai licenziamenti, al taglio del personale delle ferrovie, Moretti taglia anche i sistemi di sicurezza e toglie alle OGR di Bologna un macchinario a ultrasuoni che è l'unico macchinario esistente, credo, in Europa, di questo livello ovviamente, che garantiva durante il controllo del sistema rotante di verificare che nel sistema rotante non ci fossero delle crepe nel traino o nelle ruote, no? Bene, il taglio imposto da Moretti porta a togliere dall'OGR oltre ai lavoratori anche questo impianto a ultrasuoni. Quindi ecco perché arrivo quindi a Viareggio. I vagoni, ma uno soprattutto, quello dal quale cade la cisterna di CPL, aveva il sistema rotante difettoso perché non era stato passato al collaudo di questo macchinario tagliato dalle logiche aziendali di Moretti. Tant'è vero che questo fatto poi emerge anche nel processo che vede tuttora aperto, perché si stanno aspettando, credo, l'ultimo livello di giudizio, credo, ma non ne sono sicuro perché poi non ho più seguito questa cosa. Però emerge questa cosa nel processo. Poi il vagone deraglia perché si spacca l'asse rotante proprio nella città di Viareggio e sbalza fuori in questo gigantesco cisterna di CPL. Come hai deciso di metterlo in scena? Come sarà appunto la messa in scena? C'è una lettura teatrale a leggio mia, accompagnata da un musicista. C'è un'atmosfera molto drammatica perché dentro l'OGR, oltre alla lavorazione dell'amianto che viene denunciata negli anni 70-80, anche con l'ingresso nella fabbrica di un famosissimo ricercatore, un grandissimo professore, Cesare Mastoni, fondatore dell'Istituto Ramattini, poi morto in circostanze apparentemente normali per infarto, ma secondo me Maltoni ha subito un altro destino, ma di questo ne parleremo un altro momento. Sì. E Maltoni dice ai lavoratori: guardate che vi state ammalando di cancro. E le prime difficoltà con la CGL, la CISL UIL, che era all'interno della CR, nascono qui, con questa denuncia di Maltoni che porta la medicina del lavoro all'interno delle fabbriche, non siamo negli anni 70. Poi l'altra cosa che volevo dirti sulle OGR, si chiude il monologo, riguarda la speculazione edilizia conseguente al taglio occupazionale delle OGR, che è molto importante. Le OGR sono su 120.000 metri quadri all'interno del centro della città di Bologna. Quando Cofferati diventa sindaco, simultaneamente Moretti è già amministratore delegato e nasce un rapporto molto stretto tra la logica di taglio occupazionale da parte di Moretti e la logica di urbanizzazione dell'area dell'OGR. Cioè Moretti da un lato taglia i lavoratori per arrivare a chiudere le OGR e Cofferati e la sua giunta, PD ovviamente, insomma, allora forse si chiama PDS, non mi ricordo, cosa fa? Comincia ad avanzare le pratiche per urbanizzare quei 120.000 metri quadri. Ma cosa succede? Che 1.200 lavoratori, oltre a doversi curare, perché nel frattempo si sono ammalati di cancro per l'amianto ingerito e respirato, si trovano anche a perdere il lavoro perché c'è questo piano di urbanizzazione selvaggia all'interno della città, il piano di urbanizzazione da miliardi di euro, perché tu immagina dentro una città come Bologna 120.000 metri quadri quanti soldi di oneri di urbanizzazione possono produrre. E io nel monologo riporto la documentazione protocollata degli accordi che la CGL firmava con Cofferati per il taglio e gli esuberi dei lavoratori e per la conseguente urbanizzazione. Cioè delle cose pazzesche. In chiusura, ci lasci tutti i riferimenti web per saperne di più? Il monologo è in rete intanto, nel link teatro del mio sito www.indiegroundfilm.com. Ricordiamo l'appuntamento con Il Sistema Binario.

e audiovisive, perché insomma il nostro intento è quello di creare una vera e propria biblioteca digitale vivente. Senti, hai anche uno spazio internet per saperne di più? Assolutamente sì, stesidalitesi.it è il nostro sito, dove ognuno può candidarsi con la propria tesi. C'è una call, un modulo sempre aperto, dove si può raccontare appunto la propria tesi, la propria storia, e viene di volta in volta invitato a diversi eventi, oppure può ovviamente trovare le date in programma, suggerire dei luoghi in cui fare stesi dalle tesi, e soprattutto mettersi in contatto diretto con gli stesi dalle tesi, che sono già diventati protagonisti in tutti questi eventi. Quindi può conoscere le loro storie e può contattarli direttamente se ha bisogno, se ha interesse per i propri studi, per il proprio lavoro, semplicemente perché da quello che legge li stanno simpatici. Adriana Migliucci sul suo progetto di storytelling partecipato Stesi dalle tesi, la festa del bel sapere a Roma, Binario F, giovedì 27 febbraio 2020. Con l'Associazione Psicogeografica Romana per parlare dell'antologia Detonazione, percorsi, connessioni e spazi altri nella controcultura romana degli anni 90, appena uscito e che avrà un tour di presentazioni a partire da Roma. Ben trovato. Ciao, ciao Federico. Ci racconti di questo lavoro? Il lavoro è nato quasi per caso. Io avevo questa idea da molto tempo, perché negli anni 90 li ho vissuti in modo molto intenso, con il The Blizzard Project, l'ufologia radicale, stando in centri sociali, vivendo situazioni anche strane, nuove, bizzarre, firmando sotto anonimato tanti scritti all'epoca, che poi sono passati e che manco si sa che abbiamo scritti io o altri compagni. Comunque ci siamo divertiti un sacco. Vedo che c'è un testo all'interno e si chiama Un weekend lungo 10 anni. E poi, sentendo Warbeer, che all'epoca si firmava Alter 8, conosciuto anche come Cicchettone, anche lui aveva questa idea di fare questo libro. E in effetti poi è lui che ha speso il primo indice, censendo tutte le realtà a cui ho aggiunto quelle che lui non era arrivato, tipo quelle più artistiche e antiartistiche ce le ho aggiunte io, e altre più del mio giro, tipo Astonate, più vicino del Blizzard Project, e mi ha detto quelle pensaci idee. Poi Warbeer ha dovuto mollare per questioni personali e ho continuato io da solo, e poi ho incontrato praticamente Pierpaolo di Revap. Io avevo già curato un libro per lui che era sul The Blizzard Project romano, perché c'è tutta sta vulgata sui bolognesi che è un po' rotto il cazzo, perché comunque The Blizzard era una moltitudine anonima e non un gruppo di 4 scrittori a cui hanno partecipato anche persone che non si conoscevano fra loro, e questo va sempre detto perché questa è la realtà, insomma, del Blizzard Project. Quindi per attrezzare un po' le cose, non giocare sempre sul piano del fake, perché comunque il giochino falso vero degli anni 90 è finito, il girare intorno alle cose è finito, quindi si tratta un po' di ristabilire il gioco del vero invece. E quindi curai questo libro sull'U The Blizzard Project romano, in cui con tutti la documentazione, eccetera, eccetera, eccetera, per far vedere quello che era stato fatto a Roma, perché Roma era molto più radicale, comunque la situazione bolognese era più sul Pengsting, eravamo più sulla metropoli, sul territorio. Il libro è stato un successo, perché comunque Pierpaolo questo libro ci ha fatto circolare molto, e quindi mi ha detto dai, facciamone un altro. Io ho detto, guarda, io ce l'ho già all'indice di un libro, ed è un libro sugli anni 90. E come dei pazzi siamo partiti, lui con molta pazienza a aspettarmi, perché io faccio anche altre cose, io ci ho messo 2 anni a contattare tutti, a mettere insieme i pezzi, però non l'ho scritto io il libro hanno tutti i compagni, infatti ho firmato molti compagni, ovviamente molti compagni e compagne, quindi il riferimento è il libro su molti compagni, sui fatti di Lorusso, insomma. Comunque, non è un libro nostalgico, perché comunque vuoi raggettare delle esperienze e dei saperi, se si trattava tanto di conoscere e cantassare tra di noi non trova senso, e di raggettare dei saperi e delle esperienze delle generazioni di adesso, 20-30 insomma, e che facciano qualcosa di innovativo adesso, insomma, anche nelle lotte, nella guerra di classe. Però no, fai vedere che se lo fa, che è stato fatto, e certo poi le mazzate le abbiamo prese dopo, però insomma, in quel decennio si sono fatte un sacco di cose, si è innovato il linguaggio della politica, tutto. Un periodo, secondo me, all'epoca quella danza degli anni 70, ma dal punto di vista più sovrastrutturale comunque è cambiato tutto. Io dico sempre che mentre negli anni 70 il linguaggio andava a intaccare direttamente la struttura dei rapporti di produzione, i rapporti di produzione erano così fragili negli anni 90 perché c'era una ristrutturazione del cantiere del capitale, per cui a un certo punto c'era una sovrastruttura abnorme che si reggeva su dei rapporti di produzione fragilissimi, perché si trattava appunto di innovare questi rapporti di produzione per il capitale, cioè di trasformarli in precariato, diversificando tipo di contrattuali, frammentando sul territorio il lavoro, eccetera, eccetera. E quindi rimaneva questa sovrastruttura vacillante, abnorme, che era un residuo degli anni 80, e che i compagni della Pantera poi sono stati i primi a intaccare, e a forza di detonazioni, chiamiamo così, cioè di realtà, esperienze, anche desideranti, anche molto gioiose, anche molto esperienziali. Voi pensate che, per esempio, tutto il movimento LGBTQ transfeminista si rivede lì, in quegli anni. Quindi si trattava anche molto di una cosa molto fatta di corpo, di desiderio, di esperienza, forse che di politica intellettuale o di prassi classica, presa del prassi d'inverno, non c'è più nessun prassi d'inverno da prendere, insomma, se non gestire, autoprodurre, far circolare queste esperienze, prendersi gli spazi. Tutto era molto spostato sui territori, attraverso la presa del territorio. Questo è dovuto anche al fatto che c'è stata la Pantera, perché i compagni della Pantera che hanno innescato, si può dire, i centri sociali che già c'erano dai fine anni 80 e li ha fatti detonare, sono esplosi, perché tutta una serie di persone che erano puramente alternativi sono diventati veri e propri militanti dopo. Come è strutturato il libro? Com'è la raccolta? Il libro innanzitutto sugli stati di alterazione, gender, no gender, autoproduzione, arte, anti-art, movimenti, profezie, tam-tam, banks, riviste, visioni, queste sono le parti in cui è diviso il libro. Ogni parte dei compagni hanno scritto firmandosi come volevano, con un nome, con uno pseudonimo, come gli pareva. Io ho dato totale libertà a ciascuno anche stilisticamente. Il libro è molto eterogeneo stilisticamente, è molto eterogeneo anche dal punto di vista di quello che puoi trovare, perché gli anni 90 erano eterogenei. Quindi è un libro che clasha su se stesso, per come clashava all'epoca il movimento alle volte. Sulle serie di alterazione quindi c'è sia una spiegazione di tutte le tossicomanie dell'epoca, ma anche tantissimi documenti di controinformazione che venivano distribuiti sia nei centri sociali che nei rave. Ed è un pezzo molto importante del libro, perché è pieno di materiale. Poi gender, non gender, c'è appunto quello che dicevo prima, si va dal movimento LGBT al femminismo dell'epoca che spaccava, era già molto avanti. C'è chi cercò addirittura di mettere in crisi il loro separatismo, mi ricordo un caso che si chiamava Sessualità Rivoluzione, che pretendeva di dire che anche i maschietti dovevano entrare nell'assemblea, nelle riunioni delle femministe. A mio avviso è stato un grande errore. Comunque, abbiamo pubblicato anche quel libretto, Sessualità Rivoluzione, per intero. Poi c'è autoproduzioni, oggi si fa molta autoproduzione ma non si fa autodistribuzione, all'epoca c'era molta autodistribuzione. E quindi sono anche rappresentate tutte le realtà di autodistribuzione dell'epoca. Non molte, ci si è provati, hanno funzionato fino a un certo punto, però c'è l'autodistribuzione. E l'autoproduzione, senza l'autodistribuzione è niente, perché l'autodistribuzione fa circolare i prodotti, gli autoprodotti. Poi arte e anti-art, in cui c'è le situazioni che lavoravano sulla grafica all'epoca innovativa, situazioni anti-artistiche, a volte ai margini del movimento antagonista, però che ci stavano dentro, poco conosciute, piccoli movimenti che c'erano dentro il movimento, infatti spesso si chiamano movimento dei movimenti. Le profezie sono personaggi bardi dell'epoca, compagni e compagne che vanno da Elena Velena fino al Duca e ad altri, che hanno praticamente gettato le basi di tutti gli discorsi di oggi e che continuano a stare sulla strada. Tam Tam è un nome che abbiamo dato così scherzosamente a tutte le realtà di diffusione, tra cui la radio, ma anche a situazioni molto innovative, perché era la prima volta che apparivano come le BBS, Bulletin Board Systems, pensa da Havana BBS. I pranks ovviamente sono gli scherzi, le burle, i panici mediatici, c'erano gli scherzi, i giornali, c'erano queste cose qui, in cui si giocava col gatto col topo, si poteva ancora fare con i giornali, e quando si sono in social, i giornali online, non si può più fare, a parte che è stato sgamato il trucco, però vabbè. Comunque all'epoca si facevano grandi scherzi ai giornali e si prendevano pure le prime pagine, e penso a lui del Blizzard Project in questo caso, ma non solo, anche all'Ufologia Radicale. Poi le riviste, sono tutte le riviste dell'epoca, ma c'è veramente tutto. Le Visioni, che erano le realtà che lavoravano sul visuale, fino a Fiction, e i Ritmi, che sono le realtà musicali, la Radio Onda Rossa Poste fino alle ultime. Abbiamo anche coperto, ad esempio, tutta la scena hardcore punk di Terremoto. È stato curato da me e da altri compagni e compagne che ci siamo fermati con uno pseudonimo che è l'Associazione Psicografica Romana. Siamo stati molto aiutati da tutti, quindi è un libro pubblicato da una piccola casa editrice che in realtà è un'etichetta discografica che fa New Wave Band con base a Pignattana, che non fa libri in teoria artisti in vinile. La Rave Up viene da esperienze come i Transex, come UFO Dictators, questi gruppi qua, no? E poi anche la un'etichetta discografica. La bella grafica l'ha curata il bureau della casa editrice, velocissimi, efficaci, ma soprattutto che la copertina è un rave a bufalotto, una foto fornita da Antilab del CISP 99, e c'è un piccolo segno che è di Bull. E poi è interessante perché l'editing è stato fatto da due realtà molto differenti fra loro. Un passaggio è stato fatto da Valerio Gentili, e un passaggio è stato fatto da Lara Grasso, una poetessa del movimento transfemminista. Ricordiamo Detonazione, percorsi, connessioni e spazi altri nella controcultura romana degli anni 90. Un saluto e un ringraziamento all'Associazione Psicogeografica. Un saluto a tutti voi, ciao. Siamo arrivati all'agenda della settimana teatrale romana. Simone Nebbia di Teatro e Critica, la parola a te Simone, ciao. Ciao a tutti, buon pomeriggio, e andiamo ad affrontare questa settimana in cui alcuni teatri nelle zone del nord sappiamo essere chiusi fino a data da destinarsi, chiusi per una settimana per misure cautelative, e teatri del nord sono abbastanza pieni, quindi lì viene normale fare una chiusura cautelativa. A Roma, tutto sommato, in alcuni teatri non servirà sicuramente, e altri, quelli più frequentati, vedremo che cosa ne verrà. Andiamo sicuramente a partire forse dal Teatro Liceo, tanto per ricordare che lo spettacolo su Giacomo Ravera fino al 1 marzo, Gabriele Dell'Avia e I Ragazzi che si amano, Presta, sono nella sala grande, mentre Giusto la fine del mondo, dice Luc Lagarza, con l'arcieri Francesco Frangipane, continua dal piccolo Eliseo con Anna Bonaiuto. Questo per quanto riguarda il Teatro Eliseo, mentre per il resto della settimana c'è da vedere un po' di cose interessanti. Dunque, sicuramente, appunto, se ne parla anche nelle nostre interviste, tuttavia giovedì 27 febbraio AP, Accademia Popolare dell'Antimafia e dei Diritti, presenta il suo ulteriore appuntamento con la rassegna teatrale della prima romana di The Speaking Machine della compagnia Ragli, con la regia Rosario Mastrota, Daniela Cozzolini, Antonio Monsellato e Maurizio Rippa, grande attore, grande cantante che ben conosciamo e che insomma è una sicurezza sul piano realizzativo in qualche modo. Dunque, un futuro incerto, sono i giorni in cui non sembreremo umani, ma anche sapremo come essere tristi, questo ci dice un po' la scheda. Una donna che lavora come macchina parlante, un cane umano che dà piacere e un padrone di casa attende una promozione. Questo triangolo con più di 3 punti è il testo di Victoria Thunberg, insomma lo pronuncerà meglio Rosario Mastrota quando lo sapremo chiedere, ed è un lavoro in qualche modo che va a ideare una distopia che ha a che vedere molto però con il nostro contemporaneo, con la nostra attualità. Quindi, giovedì 27 febbraio alle ore 20:30 in scena The Speaking Machine ad AV teatro a Don Bosco. Poi al Teatro Vascello questa settimana abbiamo il Balletto di Roma che presenta la coreografia di Davide Valrosso, Il sogno di una notte diversa. Estate è il capolavoro shakespeariano che rivive nella danza del Balletto di Roma e sarà in scena da questa sera, il 5 di febbraio, fino al 1 di marzo, quindi fino a domenica. Questo per ciò che riguarda il Teatro Vascello. Vado anche a ricordare che ancora questa sera, per vedere Aspide e Gomorra in Veneto, spettacolo di Arcipelagos Teatro, scritto dal drammaturgo Tommaso Fermariello, che vince il Premio Zundelli del 2019, il testo Fantasmi, e appunto Gioia D'Angelo e Martina Testa, come ricordano le nostre interviste, ed è patrocinato dall'Associazione Libera contro le Mafie. Questa è una cosa molto più importante da dire, che fa luce su una vicenda realmente accaduta, e lo fa prendendo prestito le parole degli atti del processo con la ribaltata. Aspide, dal 2009-2011, gruppo di persone affiliate al clan dei Cazzaventi, mette in ginocchio 130 imprenditori di diverse regioni italiane. Quindi questo lavoro criminale attorno all'imprenditoria italiana è alla base dello spettacolo che Arcipelago Teatro presenta al Teatro Porta Fortese ancora questa sera a Roma, dove sono andato in scena già ieri. Per quanto riguarda invece il Teatro Argo Studio, andiamo dal 25 febbraio, da oggi fino al 1 marzo, a vedere Il bambino dalle orecchie grandi. Uno spettacolo scritto e diretto da Francesco Laghi con Anna Bellato e Leonardo Maddalena. Si tratta di un lavoro firmato dalla compagnia, appunto, Teatro di Linea, già vi ho citato varie volte. Una coppia, un uomo e una donna che si sono appena conosciuti, due persone che si avviano a stare insieme tra un po' di incertezza tra il presente e il passato. La sensazione di un amore tutto nuovo, ma qualcosa in qualche modo si segnala come già vissuto. Quindi questo Bambino dalle orecchie grandi al Teatro Argo Studio fino al 1 marzo per Teatro di Lina. Poi vediamo un po' ancora, sì, sicuramente al Teatro Torlonia due lavori importanti che andremo a vedere, che entrambi riguardano la maternità. Questo dico sulla maternità, sono due autrici, Lea Barletti, anche sentiamo nelle nostre interviste, e Luisa Merloni. La prima presenta il monologo della buona madre e appunto sarà in scena da 28 al 1 marzo, gli stessi giorni ma con altri orari. Luisa Merloni insieme a Marco Guaglia presenterà Farsi Fuori, spettacolo che abbiamo già visto al Quarticciolo nella scorsa stagione. Per quanto riguarda il monologo della buona madre, è un dialogo interiore attorno al ruolo di madre che viene portato sul palco come una pubblica confessione, un racconto poetico sul vissuto di una donna che davanti alla maternità fa delle scelte professionali, ma che non la liberano da una autocritica e dal giudizio sociale. Per quanto riguarda invece Farsi Fuori, anche qui una riflessione sulla maternità, ma sugli stereotipi della maternità affrontata con invece una particolare ironia, ed è il dialogo tra una quarantenne emancipata e molto lontana dall'idea di diventare madre e l'arcangelo Gabriele, che diventa un po' uno scontro tra due visioni del mondo diverse e che sul palco si andranno a confrontare in maniera abbastanza divertente. Per quanto riguarda invece lo Pop Theater, scusate, non ho detto forse che è il Teatro Torlonia, gli spettacoli di Lizzico sulla potenza. Mentre invece da questa sera fino al 1 marzo ho Pop Theater Clara Schumann, la grande pianista, la cui storia sarà messa in scena dall'attrice e musicista Gwenda Goria, che interpreta insieme a Lorenzo Manfredi questo testo, La pianista perfetta, scritto da Giuseppe Manfredi e diretto da Maurizio Scavarro, grande regista, tante regista che avevo un po' perso di vista in realtà da un bel po' di anni. C'è una frase di Clara Schumann che un po' potrebbe evidenziare questo spettacolo, la grande concertista. Diceva: la mia immaginazione non può figurarsi una felicità più bella di continuare a vivere per l'arte. Quindi questa donna coraggiosa, intellettuale, madre, innamorata della vita, della musica e figura particolare attorno a quella del suo grande amore, Robert Schumann, compositore e grande esponente del romanticismo tedesco, e quindi il loro amore tormentato, il grande amore per la musica e l'età, verrà portato in scena fino al 1 marzo all'Osmo Theater con La pianista perfetta. Cosa altro? Il Teatro India, sì, sicuramente, perché ci metterà in scena per grandi pianure la danza del Teatro 27-28 febbraio in questa sala denominata Oceano Indiano. Il talento norvegese della danza Ingrid Fixal presenta Shadows of Tomorrow, che è un'esperienza percettiva, una sorta di concerto psichedelico senza musica, dove il pubblico si immerge in un gioco di luci, di corpi e di ombre. Quindi una creazione coreografica con ben 20 performer che saranno appunto sulla scena del Teatro India. Ci sarà attorno anche un stage, è già attualmente in corso un laboratorio tenuto dalla coreografa Ingrid Fixal per grandi pianure appunto al Teatro India, anche il laboratorio sarà appunto in queste sale. Ancora andiamo a segnalare al Teatro Studio 1 dal 27 febbraio al 1 marzo la compagnia Lumic Teatro, che avevamo già segnalato negli scorsi anni, nelle scorse stagioni, presenta Cervus del drammaturgo americano Aaron Mark, una commedia noir grottesca e sorprendente che racconta la solitudine e le incomprensioni di una coppia contemporanea. Quindi cosa di meglio di questo? Per quanto riguarda questo spettacolo, la regia va a Michele De Maria. Aaron Mark è l'autore, Michele Maria che lo interpreta insieme anche a Ludovica Apolloni, che è nella sala appunto di Torpignano del Teatro Studio 1, sono Ken Cin, sia marito e moglie, un weekend di campagna, lui parla molto, lei ascolta, forse ascolta. Sono rimasti soli, la figlia è andata all'università, il gatto è scappato, la madre è morta e soltanto nella loro solitudine, soltanto ora, possono in qualche modo riflettere sul loro modo di stare insieme, sul loro essere una coppia. 27 febbraio, 1 marzo, Teatro Studio 1 per quanto riguarda Lumic Teatro con Cervus. Ultimi appuntamenti che andiamo a ricordare, resta in scena il lavoro di Sergio Blanco, Dead of Land, allo Spazio Diamante, ancora fino a domenica 1 marzo, ma dal 27, dal giovedì 27, ed è un testo che viene tradotto da Angelo Savelli, e lo mette in scena interpretato da Ciro Mavella e Samuele Picchi, questo lavoro appunto firmato dalla compagnia Pupi e Frasette. Si tratta di un'opera appunto del drammaturgo Franco Uruguaiano che si ispira al mito di Edipo, alla vita di San Martino e a un fatto di cronaca giudiziaria, una sorta di procedura drammaturgica che ricorda quella di A Sangue Freddo di Truman Capote, e lo spettacolo parte da una serie di colloqui che si svolgono nel recinto di un campetto da basket di una prigione tra Martino e il drammaturgo che vorrebbe portare in scena la sua storia. Questo è ciò che sarà sul palco dello Spazio Diamante dal 27 al 1 marzo. Ancora qualcosina da dire, perché resta in scena fino al 1 marzo la proposizione teatrale del lavoro cinematografico di Ferdinand Ospetek, Mine Vaganti, che sarà appunto all'Ambra Iovinelli ancora fino al 1 di marzo, con Francesco Pannofino, Paolo Minaccioni, Caterina Vertova e insomma anche altri attori giovani e di talento, e lo stesso Ferdinand Ospetek pure la regia di questo lavoro. Avesse visto il film, vorrà andare a vedere la realizzazione, potrà farlo con semplicità al Teatro Ambra Iovinelli. Ricordo poi invece appunto che attorno al teatro di Roma ci sono molte attività al Teatro India, sono riconducibili al grande movimento di Oceano Indiano, i lavori di Fabio Condemi, di Vendente, di Dom, MK, Muta Imago, compagnie che si stanno interrogando sull'apertura alla città, sul modo di fare creazione, di progettare delle forme artistiche, e lo stanno facendo in questo periodo per una residenza triennale al Teatro India, e quindi molte delle attività che saranno svolte in questo periodo nel teatro, appunto nella sala Oceano Indiano, come abbiamo ricordato lo spettacolo precedente, di cui abbiamo già parlato appunto, saranno a nome appunto di Oceano Indiano. Siamo però soltanto all'inizio, c'è stato insomma già l'oratorio virtuale di Fabio Condemi questa domenica, seguiranno un po' di attività di cui parleremo comunque nelle prossime settimane, ma attenzione perché le attività sono molteplici e molto interessanti. Ultimissimo appuntamento è quello che porta da questa sera fino all'8 marzo Alessandro Serra sul palco del Teatro Argentina per il capolavoro scoppiano Il Giardino dei Ciliegi. Alessandro Serra, Teatro Persona, ormai grande regista italiano che insomma ha ottenuto parecchi premi, è retrica ormai in tutta Italia e in Europa, si confronta con questo grande classico, questa grande partitura sinfonica per anime, così viene chiamata quella di Cepo, ed è effettivamente così, insomma, una sorta di punteggiatura di una vita attorno alla vicenda di questo giardino, dei ciliegi, le stanze della casa, con un giardino che prima o poi dovrà essere abbandonato, ed è quello tutto il senso della vita secondo Cepo. Quindi dal 25 febbraio, da questa sera, fino all'8 di marzo, Teatro Gelsina, il giardino dei ciliegi, imperdibile, di Alessandro Serra. E con questo direi che abbiamo terminato. Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.